giova, e appena lo credo. L'incredula baldanza alle voce d'un padre a padre re. Fini m'offendi mai, so che dovrei punirla, punio dono, al vostro error di falli e vi perdono. Chi è reo clemenza implori? Melindo e maru in ver perde l'impero, all'altrui ritornar anche dovere. Rapire l'altrui anche delitto. Io sono confuso, Pio, però sono afflitto. Ostinato e superbo e tal favelli, v'aggiunge ancora tradito ed innocente. Padre, io troppo d'onore, quale male senti? Tu so nascesti alla ragion del regno, e tu solo l'avrai. Ora nel tempio sapresta già le nozze per te pompa solene, dove darò dell'esser tuo vassalli testimonio infallibile e sincero.